democrazia. La democrazia è un concetto complesso, cioè molto complesso. Diciamo che per oggi è la forma di governo che tiene meglio di tutte, però è un po' strana. Cioè io tipo la vedo fatta così. Dante, inferno, purgatorio, paradiso, sopra! Sono pochissimi, stanno benissimo, sono tipo in paradiso. Sotto, sono tantissimi, stanno malissimo, sono incazzatissimi e sono tipo all'inferno. E in mezzo ci sono quelli che stanno in mezzo. Cioè, è la classe media. Questo è molto importante. Loro sono tipo quello che io chiamo il cuscinetto democraticamente rilevante. Cioè, sono quelli che vanno informati, sono quelli che vanno educati, sono quelli a cui vanno raccontate le cose per fare in modo che quelli che stanno sopra non incontrino mai quelli che stanno sotto. Facciamo un esempio. C'è chi arriva in Italia con la barca. Tu dici, cazzo, che culo. Già, però, immaginate che è notte. Che c'è il vento. Le onde. Immaginate che dovete salire in 30... su una barca, ma che la barca è per tre. Immaginate che ad un certo punto, mentre siete fuori in mezzo al mare, che state cercando di raggiungere un'altra costa, un'onda leggermente più alta delle altre mette il naso nella vostra barca. Immaginate che ad un certo punto vi ritrovate con i piedi leggermente bagnati, che il vento soffia, che un'altra onda ancora leggermente più alta delle altre mette di nuovo l'acqua nella vostra barca. Immaginate che ad un tratto avete troppa acqua nella barca, dovete cominciare a vuotarla, la barca scende e comincia a essere il caos, la gente si agita, qualcuno comincia a urlare e poi è un uomo a mare e poi sono due a mare. E poi c'è il vento, le onde, la tempesta. E poi ad un tratto sono tutti in acqua. E in un momento tutto è finito. Ragazzi, schiattano tutti, eh? Cioè non ne rimane vivo neanche uno. E dopo c'è un bel servizio al telegiornale. Morti 20 extracomunitari, 10 dispersi, le immagini che si aprono mentre tu li guardi nella TV lì, tutti sulla spiaggia diversi. Vabbè, che cosa devi dire? Io dico, che sfiga, che cosa devo dire? Però permettimi di pensare che il mondo è un po' strano. C'è chi di barche ne ha più d'una, che di sicuro non ne affonda neanche una, anche perché non è mica delle barche che se viene l'onda alta, viene la marea, viene troppo vento, si rompe il motore, c'era sopra il 30 e anche ammesso che succeda. Non ti fa mica la stessa informazione alla televisione. Quando sono lì, tutti diversi, tutti belli bianchi, sono già diversi. Prima di tutto, sono comunitari. Che se sei comunitario, sei comunitario. Se non lo sei, non lo sei. Fargli capire che veramente non li vogliamo, abbiamo fatto una nuova legge, che non è una legge, è un reato. È il reato dell'immigrato. Se arrivi in Italia e non ti abbiamo invitato, sia chiaro, hai commesso un reato, e mi pare anche giusto, il 60% dei reati è commesso da immigrati. Ma chi cazzo li ha invitati? Io non li ho invitati, non li voglio, sono sporchi, brutti e puzzolenti. Questo non vuol dire che il 60% degli immigrati poi commette dei reati. Ma questa è un'altra storia. Il telegiornale si dimentica sempre di farmela passare. Quindi a me non mi piacciono, non sanno lavorare, non li voglio. Tanto che se io un campo nomadi sotto casa, nel campo nomadi ci entro e gli do fuoco e lo brucio. Tanto chi se ne frega, dopo ci sarà un bel servizio al telegiornale che la farà passare come una cosa normale. Normale si fa per dire, perché a momenti morivano 5 persone, di cui uno era un bambino, quell'altro era un infante, ma chi se ne frega? Non era mica gente importante, non era mica gente che faceva parte del cuscinetto democratico. Praticamente rilevante, era gente già in mutande, era gente che non aveva niente. E poi io non li ho chiamati, non li voglio, non devono venire, non mi devono rompere i coglioni se ne devono tornare da dove sono venuti. E comunque, anche ammesso che qualcuno di loro abbia qualcosa da dire, noi quella cosa non la facciamo sentire, perché il governo lo sa che un po' di sano odio nazionale ha sempre aiutato a governare. Ecco, è arrivato, no? In Italia, adesso non so se lo avete seguito, era in settembre, è arrivato in Italia una persona, poi persona in realtà è riduttivo, è arrivato un leader. Ma anche, cioè anche leader è un po' riduttivo. È arrivato un uomo. Uomo va bene perché uomo è molto omnicomprensivo. Che è leader del suo paese, ma anche della rivoluzione. Signori, io mi riferisco al leader della rivoluzione, Muammar el-Gheddafi, detto anche Muammar el-Gheddafi, che è uguale, ma in arabo. Ecco, quando è arrivato Gheddafi, no, in Italia, è stato un momento bellissimo, fichissimo, una roba galattica, perché poi noi siamo contenti quando arriva Gheddafi, cioè è una cosa proprio che senti l'Italia che è in subbuglio, è tutta una cosa bellissima. Perché siamo contenti? Perché Gheddafi, cioè Gheddafi è uno a modo, capito? Allora, intanto lui viene, non rompe i coglioni, non vuole l'albergo, lui va in campeggio. Poi arriva con le sue 30 amazzoni, che sono tutte gnocche, che lo proteggono. Che se ti deve picchiare qualcuno è più bello se ti picchi un amazzone che se ti picchia un buttafuori di 5 metri, bruttissimo. Poi dopo lui, quando arriva, chiede delle cose bellissime, no? Fa tutti i suoi spettacoli, porta la tenda, porta i cavalli berberi, va a parcheggiarsi lì davanti col dove abbiamo messo la sede del governo, qui a Roma, a Villa Panfili, fa tutte le sue conferenze e adesso ne ha fatta una, no? Ne ha fatte tante, quando è venuto anche alla Sapienza, proprio qui dietro, dove siamo adesso, bellissima, dove ha spiegato il concetto di democrazia, poi è andato in Campidoglio, ha spiegato che il partitismo non serve a niente. Tenete presente che lui è al governo dal 69, quindi fa più o meno 42 anni. Quindi, insomma, il suo è un sistema molto, molto più avanti del nostro. Ma poi ha fatto questa cosa bellissima, che per spiegare, no, i valori fondamentali dell'esistenza, lui ha chiesto che gli fossero mandate 500 ragazze. Ecco, questa cosa è bellissima, no? Perché lui cosa ha fatto? Ha chiesto 500 ragazze gnocche, perché le ha chieste dalle agenzie e ha chieste tutte più alte di 1,70 e si è detto, è meglio spiegare le cose a delle belle gnocche che spiegare delle cose a degli altri. È più semplice, più belle, più divertente, no? Le ha chiamate, le ha fatte venire, noi le abbiamo pagate e le abbiamo mandate. E io ho pensato, cazzo, ma è anche una cosa fichissima, no? Perché poi dopo tu pensi che sei in un'agenzia, no? Di solito ti chiamano per fare dei provini, invece ti chiamano una volta e ti dicono, guarda, oh, devi andare a parlare con Gheddafi, è bellissimo, tu vai a parlare con Gheddafi, ti diamo una copia del Corano, mi raccomando, non lasciare interviste, non dire niente, non fare niente. È una cosa fichissima, capito? Cioè, per uno che non l'ha mai fatto, cioè, è bellissimo. Infatti, lui sono andati, ci hanno parlato, poi tre si sono convertite, che io pensavo anche che avrebbe fatto meglio. Però, insomma, vabbè, questa volta è andato così, però si migliorerà la prossima volta, perché la prima ne ha chieste 200, la seconda ne chiesta 500, la prossima tira il 700 e secondo me ne converte a paletta. Insomma, tutto questo per dire che noi quando arriva Gheddafi siamo contenti, perché cioè proprio è un momento se state a Roma forse l'avete visto, si apre il telegiornale, Gheddafi scende dall'aereo, Gheddafi con le 30 amazzoni in giro per Roma. Se state in giro per Roma quando è arrivato Gheddafi era bellissimo, perché praticamente non si girava più, le macchine di Gheddafi che andavano a destra, a sinistra, sopra e di sotto, una roba proprio bellissima. Io quando arriva Gheddafi c'ho come, non so come dire, come quando ti innamori, no? Quando senti che i globuli rossi accelerano, che tu stai bene, che sento proprio una cosa dentro che proprio che cresce, tutta una roba, che qualcosa che mi entra dentro, ecco, qualcosa che mi penetra, proprio come una roba che ti penetra da dietro. Cioè, proprio, bah! cazzo, cosa è successo? È arrivato Gheddafi, bello. Cioè io proprio dico, che bello, sto bene perché c'è Gheddafi, è in Italia. È un momento proprio così che mi fa sentire felice. E poi noi siamo contenti perché con Gheddafi noi abbiamo fatto un trattato. Ecco, forse voi lo sapete, abbiamo fatto questo trattato Italia-Libia. È un trattato bellissimo, fichissimo, un trattato galattico che praticamente ha un valore economico pazzesco. Noi dobbiamo investire 200 miliardi in Libia, bellissimo, che avvantaggia le nostre imprese perché andremo là a costruire delle cose, tipo adesso stiamo costruendo l'autostrada dell'amicizia, un'autostrada che corre per i 2160 chilometri della costa libica. Per adesso ne abbiamo fatto un chilometro, però non fa niente, è bellissimo lo stesso, anche perché in realtà noi non abbiamo mica spiegato a Gheddafi che stiamo costruendo la Salerno-Reggio Calabria da 45 anni e che non è ancora finita, quindi fondamentalmente lo abbiamo fregato. Ma poi soprattutto la cosa più bella di tutte, la cosa che è veramente galattica, è che questo trattato ci tiene fuori dalle palle gli immigrati, ce li tiene fuori dai maroni. Ragazzi, bella questa, fuori dai maroni, l'ho capita adesso però, perché è curioso, maroni, vabbè, cioè, è una cosa bellissima, perché Gheddafi sa come si fanno certe cose, no? Cos'è successo? Io me lo vedo, no? Gheddafi sta a casa sua, lui c'ha la terrazza, davanti c'ha il golfo dell'Ilke, no? Allora Gheddafi guarda il suo golfo, lui sta sulla sua terrazza con le amazzoni che da dietro tipo lo massaggiano e lui tiene d'occhio il golfo. Il problema fondamentale che ha Gheddafi è che lui non c'ha il concetto di acque territoriali. Questa cosa è grave, cioè le acque territoriali arriverebbero a 12 km dalla costa, no? Però Gheddafi c'ha davanti il golfo, è convinto che è tutto suo, no? Quindi lui cosa fa? Beh, io me lo vedo, è bellissimo. Gheddafi sta sulla terrazza, vede una barca in mezzo al mare, guarda la barca, chiama in capitaneria di porto e dice: ho visto una barca, deve essere dei clandestini del cazzo, prendete una delle moto, vedete che ci hanno dato gli italiani, andate fuori, prendete quella barca di clandestini. Perché noi di motovedette gliene abbiamo date 6. Sono motovedette fichissime, sono motovedette Bigliani si chiamano. Sono 6 motovedette che costano un botto, vanno fortissimo, 43 nodi fanno. E c'hanno una mitraglietta sopra, Breda, 30-70, che spara un casino, no? E gli abbiamo dato queste 6 motovedette per controllare le coste, per evitare che partano e che vengano qui da noi, quei mostri schifosi e puzzolenti. Bene, a questo punto lui con le nostre motovedette domina, controlla la situazione, controlla tutto quanto, e noi sulle motovedette ci abbiamo messo 6 militari. Sono 6 militari della Guardia di Finanza che stanno sulle motovedette a controllare che cosa succede. Però il loro contratto di ingaggio gli permette di intervenire solo in situazioni particolari, nello specifico nell'aiuto della parte tecnica della motovedetta. Quindi se hanno dei problemi di logistica, di funzionamento, eccetera. Però se uno sta negando, i nostri militari devono stare fermi e guardare se i libici riescono a tirarlo su. Cosa è successo? Che Gheddafi, il 24 agosto del 2010, comunque agosto scorso, Gheddafi ha visto un peschereccio che navigava nelle sue acque, no? Allora lui al solito ha detto: andate a prendere quella barca, i clandestini, il cazzo! La nostra moto, vedete, è partita, è andata verso il peschereccio, e quando l'hanno visto che era un peschereccio, io mi vedo i nostri militari che gli fanno ai libici, gli devono aver detto: ma ragazzi, dai, che cazzo fate? Non è che potete tirare quello, è un peschereccio italiano, non gli potete sparare! E i libici gli devono aver detto: che vuol dire andate sotto coperta! Finocchi. Quindi li hanno buttati giù sotto coperta, capito? Li hanno mandati sotto e questi sono andati sotto coperta e hanno telefonato a Pratica di Mare. Pratica di Mare che è qui dove andiamo tutti al mare in motorino, qui a Roma, no? E perché eravamo in contatto telefonico con Pratica di Mare. Allora i nostri militari hanno chiamato Pratica di Mare e gli hanno detto: oh, fanno, ma che cazzo, i libici stanno per sparare a uno dei nostri pescherecci? E a Pratica di Mare gli hanno risposto: e vabbè, non possiamo fare niente perché il nostro contratto d'ingaggio dice che non possiamo intervenire, telefonate al peschereccio. Allora io mi vedo i nostri militari che chiamano il peschereccio e gli dicono: no, ti devi fermare, perché cazzo sti militari ti voglio sparare, ti devi fermare. E io, il peschereccio era di Mazara del Vallo, quindi mi immagino gli altri che rispondono al VHF e fanno: c'è uno che dice che ci sono i libici che ci vogliono sparare, hanno dato la manetta e sono scappati, guarda, proprio così a buco, i militari libici se ne sono fregati, gli hanno sparato. Io mi sono detto: certo che è strano, cioè tu sei un peschereccio, ti chiama in italiano uno, che probabilmente in romano ti dice: oh, te devi fermare. C'ha una barca della motovedetta italiana. Tu lo vedi? Ma perché non ti fermi? Cioè, ti fermi, parli un attimo, discuti, vedi un attimo la questione. Cosa è successo? Il 22 e 23 luglio scorsi, Gheddafi aveva visto delle barche che erano dentro al suo golfo dell'Ilke. Aveva mandato le botovedette a prendere queste barche. Erano pescherecci italiani. Li avevano catturati. Dopo che li avevano catturati, i libici hanno prima preso per il culo il peschereccio italiano, dicendogli: vi abbiamo preso solo perché avevamo le vostre motovedette che vanno a manetta. Ma poi li hanno sequestrati e tenuti in Libia, in carcere, per alcuni giorni. Al che, cioè, io mi sono detto: cazzo ragazzi, oh, che palle che ha Gheddafi. E Maroni ha commentato: oh, li aver presi per degli immigrati. Questo mi ha fatto capire che, cioè, noi dobbiamo ragionare in un altro modo. Se ci fosse qua Berlusconi, no, direbbe: siete dei comunisti, degli eversivi, dei magistrati, dei PM, dei cazzoni persecutori. Se ci fosse Sarkozy direbbe: vous êtes des intellectuels, vous occupez pas des problèmes réels des gens, des machins, eccetera, je ne sais pas quoi. Noi non dobbiamo rompere le balle, perché questo trattato che abbiamo fatto vale veramente tanto, vale un sacco di soldi e tiene proprio lontani tutti. Se è uno dei nostri pescherecci è andato troppo là, cazzi suoi, l'importante è che stiano lontani gli immigrati. Allora io cosa ho fatto? Sono andato a dare un'occhiata a questo trattato, che è bellissimo. È divertentissimo. Allora, ne ho preso un piccolo spunto. Eccolo, via, questo qua. Allora, il trattato è un disegno di legge. È stato presentato dal ministro degli affari esteri, Franco Frattini. Avete visto Frattini? Cioè, Frattini è uno serio, no? Frattini in Europa è uno... Cioè, fino adesso era stato moderato, perché lui puntava a andare un po', insomma, andare avanti in Europa. Però poi adesso, insomma, c'è stato questo problema ultimo di Silvio, che è ingiustamente perseguitato per quello che gli capita. Quindi lui ha pensato di portare al Tribunale Europeo il caso. Però, insomma, fino a lì Frattini si era comportato... No, insomma, vabbè, si era comportato cercando di essere moderato, vabbè, non ce l'ha fatta, e comunque, vabbè, Frattini, seguitelo. Poi è stato presentato di concerto con il ministro dell'interno Maroni. Ecco, Maroni è un grande personaggio all'interno di tutto questo, perché voi ora non potete vedere, ma io in questo momento sto alzando un dito medio. Ma alzare un dito medio cosa significa? Non è che è un brutto gesto, capito? Non è che significa, che ne so, Maroni vaffanculo, no! Alzare un dito medio io lo faccio perché durante lo spettacolo spero sempre che qualcuno mi veda e che, come a Bossi, mi dia una laurea ad onorem in comunicazione. Mia madre sarebbe contenta, comunque, insomma, io ci provo sempre. Poi cioè, è stato presentato di concerto col ministro della difesa, La Russa. Genio, ragazzi. Genio, La Russa, genio. Perché adesso ultimamente si è un attimo scoperto, cioè ultimamente, insomma, in generale ha pestato i piedi a qualche giornalista, nel senso vero del termine. Poi dopo c'è stata quella cosa bellissima Anno Zero, dove credo che abbia detto vergognatevi 78-79 volte, ma comunque La Russa è un genio, perché cosa ha fatto? Se voi date un'occhiata in Lombardia, lui ha fatto un programma per le scuole, bellissimo. Praticamente lui ha fatto un corso dentro alla scuola, che è un corso bellissimo e maieutico, si chiama Corso alla Vita. È una roba bellissima, perché praticamente cosa ti insegnano nel Corso alla Vita? A sparare! Cioè, tu vai a scuola, capito? Ti insegnano come si spara! È una roba bellissima, perché praticamente tu puoi stare lì, capito? Che io mi sono immaginato, cazzo, che tu vai a scuola, ti danno un fucile e ti dicono: si spara così, pa pa pa pa! Te puoi sparare a qualcuno! Sai, hai presente la ricreazione? Bellissimo! Io ho pensato, che sfiga che non sono ancora a scuola e che non sono nato in Lombardia. Vabbè, insomma, poi è stato presentato il concerto col ministro dell'economia e delle finanze, ecco, Giulio. Tremonti, ecco, Tremonti, ragazzi, ce l'hanno tutti con lui. Ad un certo punto è stato anche in area di premierato, però ecco, ce l'hanno tutti con lui, perché avete visto, litiga con tutti quanti, perché si tiene tutti i soldi, non li vuol più dare a nessuno, forse non sa dove metterli. Comunque fatto sta che sta facendo una politica di contenimento economico molto forte, e quindi ci condurrà fuori dai marosi della contemporaneità, dai marosi della vita. Insomma, Tremonti, teniamoci un occhio, visto che sta investendo. Poi c'è il ministro dello sviluppo economico. bisognerebbe dire il fu ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola. Ecco, Claudio, cioè io in questo momento mi tocco perché quando dico Scajola, no? Cioè, sa un po' di malattia, allora io mi faccio sempre un po'. Però vabbè, Claudio, insomma, io vorrei, ragazzi, spendere due parole, perché il povero Claudio lo hanno fregato. Cioè bisogna essere onesti, è stato brutto quello che gli hanno fatto. Perché comprargli tre quarti di casa e non dirglielo, cioè non è bello. Cioè, nel senso che se me lo facevano a me, che mi compravano tre quarti di casa senza dirmelo, io mi incazzavo, no? Cioè, è una cosa brutta che non si deve fare. Infatti a Zampolini, non ricordo come si chiama, architetto, io glielo vorrei dire, perché non è bello fregare qualcuno in questo modo. Comunque, insomma, tanto Claudio adesso non è più ministro. Ha detto che tornerà, però nel frattempo non è più ministro. Non so se avete seguito che bello il caso del ministro dello sviluppo, che tra l'altro è uno che fa un sacco di cose. E è successo che è rimasto vuoto per 154 giorni. Com'è andata realmente? È andata che Berlusconi, dopo che ha sgridato Claudio perché Claudio ha ammesso di avere delle colpe, ha detto vabbè, adesso il ministro dello sviluppo lo faccio io, poi gli hanno detto Silvio, però non è che puoi farlo per troppo tempo, quindi devi trovare qualcuno. Allora lui ci ha pensato 5 minuti e ha detto mettiamo Romani. Romani era un uomo Fininvest, quindi gli hanno detto ma Silvio, non è che possiamo mettere Romani perché è un uomo Fininvest. Ah, va bene, allora lo faccio io. Ha continuato a farlo lui dopo 154 giorni, che lui praticamente non ha avuto tempo, perché Silvio è impegnato, ragazzi, cioè ha troppe cose da fare, non ha avuto tempo di occuparsi del Ministero dello Sviluppo. Gli hanno detto, Silvio, bisogna che mettiamo qualcuno al Ministero dello Sviluppo, perché è il Ministero dello Sviluppo, dobbiamo fare qualcosa, non facciamo neanche bella figura. Allora Silvio ha pensato un attimo e fa, Romani, va bene? Che palle, mettiamo Romani. Quindi adesso c'è Romani che è al Ministero dello Sviluppo. Vabbè, insomma, dategli un occhio, seguitelo nel caso che ha fatto adesso, ha seguito della Fiat con Sacconi. Come avete visto, gli incontri che ci sono stati rispetto a Marchionne eccetera sono stati tanti e frequenti, e lui ha lavorato molto. Comunque vabbè, Romani è il nuovo Ministro dello Sviluppo. Poi dopo è stato presentato col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoli. Ma voi sentite mai parlare di Matteoli? Cioè Matteoli fondamentalmente Infrastrutture e Trasporti in Italia è un disoccupato, non c'ha un cazzo da fare. Cioè stiamo facendo il ponte, però ponte, boh, chi cazzo vedrà mai poi sto ponte? Poi è stato presentato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Stella Gelmini. Ecco, che bello, istruzione, università, ricerca. Io quando dico questa cosa sento proprio, c'ho proprio un senso di istruzione, università, di nulla, no? Cioè è proprio una cosa che è nell'aria. Poi la Gelmini, no, avete sentito adesso che bello che ha commentato quel milione rotte di persone che sono scese in piazza come poche radical chic. Ha un po' di confusione la Gelmini, ha fatto anche delle buone cose, diciamo che ha un po' di confusione, comunque non fa niente. Poi è stato presentato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Sacconi. Ecco, salute, lavoro, politiche sociali e il welfare. È un problema, c'è cioè un ministero difficile. Secondo me Sacconi ne ha troppi di ministeri, nel senso che è andato un po' fuori di testa. Lasciamo stare Sacconi, Marchionne, ma fate questa associazione di cui io non parlerò, però andatevela a vedere, Sacconi e Englaro. Ecco, voi andate a vedere Sacconi e Englaro e poi speriamo, insomma, di eliminarlo presto, il ministro Sacconi. Con tutto rispetto per il lavoro, ovviamente, noi qui parliamo bene di tutti, eh? Poi è stato presentato dal ministro per i rapporti con le regioni, Fitto. Ecco, voi sentite mai parlare di Fitto? Normale, stiamo facendo il federalismo, Fitto non conta un cazzo. Tra l'altro, non sono sicuro, ma secondo me lo hanno anche silurato. Poi è stato presentato di concerto con il ministro per le politiche europee, il fu ministro per le politiche europee, perché lui l'hanno silurato davvero, Ronchi. Ecco, Ronchi è un fantasista, cioè come nella squadra serve qualcuno fantasista, capito? Ronchi è uno che va in Europa e spiega cosa succede in Italia, è proprio, cioè c'è una fantasia della Madonna. E poi è stato presentato di concerto con il ministro per i beni... Questo è un problema, perché quando devo dire questo nome io sento proprio, sento una cosa che mi penetra da dietro, ma proprio forte, tipo, bam, sento! E io non posso farlo, anche perché non riesco neanche a parlarne bene, quindi ne dovrei parlare male, ma non posso perché è un collega. C'è un poeta. Io mi riferisco al ministro per i beni e le attività culturali. Sandro, il cognome non lo dico, ok? Perché veramente il cognome è troppo. Se devo dire il cognome ho proprio un problema. Quindi, come ministro Sandro, ecco, il ministro Sandro, essendo un collega e un artista, io ho pensato che era necessario dargli comunque diritto di replica. E quindi ho preso alcune poesie che lui ha scritto. Sono dei versi pubblicati su Vanity Fair, nella rubrica Versi diversi. È bella questa rubrica di Vanity Fair. E vabbè, ne ho prese alcune per dargli diritto di replica, perché io gli avevo chiesto se lui voleva venire qui oggi, ma lui ha detto che non aveva tempo, che gli sarebbe piaciuto molto essere alla Radio Onda Rossa, ma che non aveva proprio un secondo per venire. Quindi io ho preso alcune poesie e adesso ve le leggo. Sono proprio poche parole, nel vero senso della parola, perché lui di solito procede per ossimori che vanno uno dietro quell'altro, ma è bellissimo, quattro versi di ossimori. Ecco, ad una le prime parti sono titoli, ovviamente, no? Ad una misteriosa commessa della camera. Dolente fulgore, mite regina, misteriosa malia. Questo verso è difficile. Polvere di stelle. Ma tipo Ziggy Stardust. A Michela Vittoria Brambilla. Io questa l'ho trovata anche un po' cattiva, devo dire. Ignara bellezza. Rubata sensualità. Questa la lascio alla vostra immaginazione. Fiore reclinato. Peccato d'amore. A Barack Obama, ecco, attenzione, qui entriamo proprio dentro a quello che è il Bondi poeta. Qui si mescola il dionisiaco, il profano, l'apollineo, è proprio una roba, proprio a Barack Obama. Impronta ancestrale, fuoco purificatore, cammino spirituale, perla nera. Ma no! Sandro, dai, cazzo! Vabbè, se è sbagliato e voleva mettere un altro aggettivo che non gli è venuto in quel momento lì, e vabbè, andiamo avanti. Questa invece l'ho messa, è a Bibi Ballandi, l'ho messa perché questa per la prima volta esce dalla quartina, per la prima volta c'è qualcosa di più di un ossimoro più un ossimoro più un ossimoro. Qua ci sono anche due Angin Bémont. Ecco. Amore è il nome di Dio. Un bimbo piange nelle braccia della madre, lì, Angin Bémont, c'è Dio, l'armonia delle sfere celesti è Angin Bémont, il silenzio di Dio, e basta, questa non l'ho capita, finiva così. E poi questa, ecco, questa proprio l'ho messa perché comunque Sandro meritava che ci fosse questa poesia, a Rosa Bossi. In Berlusconi. Mi son chiesto se c'era una parentela. Mani dello spirito. Anima trasfusa. Abbraccio d'amore. Se avete orecchie sensibili, non ascoltate. Madre di Dio. Ragazzi, giuro che l'ha scritto. Giuro, Vanity Fair, ve lo andate a vedere. Sandro Bondi, versi diversi. Sandro, ti abbiamo dato diritto di replica. Purtroppo non sei potuto venire. Noi ti vogliamo molto bene, eccetera. Ma andiamo avanti. Ecco, questi erano quelli che hanno presentato il trattato. Torniamo un secondo al trattato, perché il trattato è stupefacente. Allora, il trattato dice: onorevoli deputati, il trattato di amicizia e partenariato e cooperazione fra Italia e Libia è stato firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 dall'onorevole presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, anche lui in campeggio, e dal leader della rivoluzione Muammar al-Gheddafi, detto anche Muammar al-Gheddafi. Oltre al preambolo, il trattato si compone di 23 articoli suddivisi in tre capi. 23 articoli, tre capi. Capo 1, articoli 1-7, principi generali. Non sono andato molto lontano, ho preso l'articolo 6 e 7 del capo 1, è stato molto bello. Allora, l'articolo 6 dice: il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alle rispettive legislazioni e agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale, dei diritti dell'uomo. Qui abbiamo un problema, perché Human Rights, quell'ONG di cazzo lì, cosa ha fatto? Human Rights, nella possibilità di mettere al paese Libia la categoria paese libero, paese mediamente libero e paese non libero, ha detto che la Libia non è un paese libero. Ma è falso, perché nel nostro trattato c'è assolutamente scritto che la Libia è un paese che rispetta la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Quindi, Human Rights, mai più soldi, mi raccomando, Human Rights mente, perché il nostro trattato dice un'altra cosa. Articolo 7. L'impegno al dialogo e alla comprensione fra culture e civiltà, mediante l'adozione di tutte le iniziative che, ispirate ai principi di tolleranza, di coesistenza e del reciproco rispetto, consentano di disporre di uno spazio culturale comune. Ecco, all'articolo 7 abbiamo proprio troppi problemi, perché è proprio un casino, perché non è vero, perché la Libia ha fatto della roba pazzesca, si deve essere sbagliata, no? Però ultimamente ha respinto il commissario delle Nazioni Unite, ha avuto dei problemi con l'ONU, non riusciamo a capire dentro alle carceri qual è la gestione di tutti quelli che sono profughi o considerati profughi. Gheddafi ha un'idea della democrazia particolarmente curiosa, perché proprio qui alla Sapienza ha spiegato che la democrazia non viene, come voi avete sempre pensato, dalla parola potere al popolo, ma viene dalla parola koras, cioè sedia, cioè gente seduta sulla sedia. La democrazia sono persone sedute sopra una sedia, l'ha detto proprio qui alla Sapienza. Quindi, insomma, all'articolo 7 abbiamo dei problemi enormi, no? Ma questo, insomma, è una cosa di cui alla fine noi non dobbiamo occuparci. Abbiamo detto che la cosa bella è che ci tengono fuori gli immigrati dalle palle, e quindi noi continuiamo così e andiamo avanti col nostro trattato. Mentre mi interrogavo su questa questione, dicevo però, questi immigrati che arrivano, no? Mi chiedevo, ma chi sono? Cioè, perché vengono qua a rompere le balle a noi? Non ho capito. Visto che abbiamo così tanti problemi, visto che dobbiamo fare dei trattati fuffa per tenerceli fuori dai piedi. Cioè, come funziona? Qual è la storia? Ora, più o meno sappiamo che cosa fanno. Cioè, sappiamo che c'è la ricerca di una vita migliore, sappiamo che c'è il desiderio di arrivare. Ma quello che io non sapevo, e che ho scoperto adesso recentemente, che i viaggi che fanno sono viaggi bellissimi, eh? Cioè sono viaggi che se tu li facessi con tipo donna avventura pagheresti 25-30 mila euro, sono viaggi pazzeschi. Allora io ne ho preso uno proprio veramente divertentissimo, che è un viaggio in cui gli immigrati che partono dal Niger o dal Mali si dirigono verso la Spagna. Ecco, voi ora dovete cercare di immaginarvi l'Africa. È un po' difficile immaginarsela così, però voi dovete pensare almeno all'Africa del Nord, qui dove sta succedendo adesso tutto un casino della Madonna, no? Pensate al Marocco, all'Algeria. Io ve la proietterei, ma in questo momento non riusciamo. Qui ce l'abbiamo proiettata in studio qua a Radio Onda Rossa, quindi io ce l'ho davanti, per me è molto facile. Ma ecco, voi fate immaginazione. Voi immaginate, sotto la Spagna c'è il Marocco, poi dopo di fianco c'è l'Algeria, un po' più a destra c'è la Tunisia, da cui adesso stanno arrivando tutti quanti. Qui sono sbarcati, avete visto, 4.000 soltanto in 3 giorni a Lampedusa. Stanno venendo via perché c'hanno un po' di casino. Questa è tutta una parte di spettacolo che tratteremo nella prossima puntata qui a Radio Onda Rossa. E la Libia. Quindi nell'ordine questo è il Nord Africa. Sotto al Nord Africa c'è il Centrafrica, proprio quindi sotto l'Algeria, proprio in mezzo al deserto del Sahara, c'è il Mali, il Niger, il Burkina Faso. Ecco, voi immaginate di guardare proprio quel punto lì al centro del Nord Africa. Quando uno parte dal Mali o dal Niger, fa un viaggio bellissimo. Cioè lui si deve recare in Spagna. Nello specifico cercano di andare alle isole Canarie, perché è più facile, perché arrivare in Spagna è molto difficile, perché hanno l'enclave di Ceuta e Melilla, che sono proprio lì sotto a Tarifa, no? Lì dove si va in windsurf, che c'è sempre il vento, che è bellissimo, eccetera. Per andare verso le isole Canarie fanno un giro incredibile. Allora, voi immaginate che partono dal Mali, dal Niger, salgono su e si buttano al centro dell'Algeria. Al centro dell'Algeria passano a Tamaraset, che è la prima città dentro all'Algeria. Stiamo già nel deserto del Sahara, quindi lì ci arrivano più o meno a piedi fra una vicissitudine e quell'altra. A Tamaraset si buttano dentro le rotte, che sono le rotte dei contrabbandieri, dei commercianti di armi, di droghe, e vanno in su, salgono fino all'ultima parte dell'Algeria che si chiama Oran, la città, e da Oran passano in Marocco. in Marocco incontrano i passeur, quindi hanno già fatto più o meno 2000 chilometri. Incontrano i passeur, che bel nome, no? Questo passeur, no? Io ho pensato, cazzo, vedi, capito, si potevano chiamare, non so, i trasportatori, i traghettatori, i caronti, non lo so, invece sono chiamati passeur, no? Che passeur è fichissimo, cioè passeur, passeur, passeur, ui, ui, je passe, passe, passon. E c'è una roba proprio che ti incontri lì, a Ouja. Ouja ti prendono e ti dicono, ok, adesso noi ti trasferiamo a Tanger, Rabat, Casablanca, insomma, nelle grandi città del Marocco, ti schiaffiamo in periferia e ti lasciamo lì a riflettere un secondo su quella che poi sarà la strada che dovrai fare quando noi saremo pronti per venirti a prendere. Quindi li mettono nelle periferie e li lasciano lì. Quindi voi dovete pensare, se mai andate a fare un giro a Tanger, a Rabat o a Marrakesh, che nelle periferie di questi posti è pieno di gente candidata all'emigrazione. Quando loro sono pronti, che hanno raggiunto più o meno le 40 persone, fanno una sorta di navetta, ti caricano dentro a un furgone e si buttano giù per quella che è l'autostrada atlantica. L'autostrada atlantica è quella che è proprio sulla costa del Marocco, quindi cioè qui proprio siamo in verticale sotto la Spagna, stiamo attraversando il Marocco andando verso il basso, no? Nell'autostrada atlantica è bellissimo perché loro hanno comprato tutti i passeur, tutti i controlli di polizia. Quindi i passeur hanno veramente fatto degli acquisti, proprio dello shopping, è bellissimo. Sembrava la... come si chiama? Protezione Civile S.P.A. Cioè, è ancora più bella perché è fatta ancora meglio, perché poi loro ogni tanto consegnano un carico, no? Mentre ti portano giù, giustamente la polizia deve fare il loro lavoro, quindi loro ne hanno pagati XY, però ogni tanto devono consegnare un carico, quindi ne vendono un carico, tanto il carico è già pagato. Il carico costa 40, vale 40.000 euro perché hanno pagato più o meno 1.000 euro a testa e sono in 40 dentro a questo furgone. Si buttano giù per l'autostrada, pagati tutti quanti, nel cuore della notte arrivano alla latitudine di Agadir. Agadir è proprio in linea con Fuerteventura, ci sono quelle isole spagnole che stanno lì proprio di fianco all'Africa, in mezzo all'oceano, capito? Cioè sono proprio lì, insomma, le Canarie, magari qualcuno di voi c'è stato anche in vacanza. Quando sono all'altezza di Agadir si buttano dentro al deserto, nella notte, fari spenti, a memoria, per le piste dei Tuareg, tutti dentro al camion, per 2 o 3 ore. Ad un certo punto si ferma il furgone, scendono, dai fuori cazzoni, ti buttano giù dal camion e ti lasciano lì. Lì vuol dire che ti lasciano vicino a una grotta, ti lasciano vicino a 2 arbusti, oppure ti lasciano in una vecchia baracca. Ti danno una tanica d'acqua, ti danno qualche biscotto e ti mollano lì nell'angolo. Poi vanno via. Vanno via e stanno via un tempo imprecisato, che può andare dalla settimana al mese. Tu sei finito l'acqua, bevi quello che trovi, sei finito da mangiare, mangi quello che trovi. Quando ritornano, se sei ancora vivo, ti portano una cosa bellissima che per me era inimmaginabile. Ti portano sopra il tetto del furgone, ti portano delle assi, dei chiodi, delle seghe, dei martelli, ti fanno costruire una barca. Cioè, voi pensate che la metà di questi viene dal Centrafrica, no? Niger, Mali, Burkina Faso, non l'ha neanche mai visto il mare. Quegli altri se l'hanno visto sì e no, sanno nuotare. E questi gli fanno costruire una barca in mezzo al deserto. Se sei fortunato che non costruisci una barca, ti portano una vecchia barca scassata, tutta da riparare. Ti portano il catrame, al solito, le assi, le seghe, i chiodi, ti mollano lì la barca. Vanno via. Stanno via un'altra settimanella, recuperano un motore del cazzo e te lo portano indietro. Poi dopo ti raccolgono, dopo che hanno portato tutto quanto, buttano la barca sul tetto del furgone, ti ributtano nel furgone di nuovo nelle piste sahariane indietro verso Agadir, per ore al buio, fari spenti. Fino alla costa. Arrivi alla costa, ta-ta, si aprono le porte, dai forza, scendete branco di cazzoni, ti buttano giù dalla barca, dal furgone, ti fanno prendere la barca e te la fanno mettere in acqua. Ora voi pensate, la barca è lunga 3 o 4 metri, è vero, queste sono fonti reali perché le sono di Gabriele Del Grande, andatelo a vedere, fortresseurope.blogspot.com. la barca è lunga 3 o 4 metri, ci devono salire in 30 o in 40. Sei davanti all'oceano, tendenzialmente non l'hai mai visto. L'oceano, se l'avete visto, sapete che ha una risacca anche quando è calmo, che è impressionante. Questi guardano la barca e secondo me si dicono, ma forse anche non... Sali! perché i passeur sono armati, sono incazzatissimi. E a quel punto tu devi salire perché hai visto troppo. Prendono uno e gli dicono: Cocco, vieni qua! Allora, guarda, la vedi questa? Questa qua è una bussola. Allora, questa bussola c'ha un ago. Vedi, quello è l'ago. Tu devi seguire l'ago in quella direzione. Capito? Vuol dire che se vai sempre dritto di là, per 100 km, arrivi alle Canarie e sei salvo. Hai capito? Sei salvo. Questa è la barra del motore. La tieni dritta in quella direzione e vai sempre di là. Hai capito? Il tipo non può che dire, sì, ho capito. Lo mettono sulla barca, accendono il motore. Non so se voi avete presente, sono quei motori da 20-30 cavalli, quelli che fanno proprio... quando li accendi un rumore bruttissimo. Salgono tutti stretti sulla barca, si tengono tutti attaccati a tutto quello che trovano. Fondamentalmente la maggior parte dei naufragi avviene a 100-200 metri dalla costa. Io me lo vedo il passeur, no? Ti mette sulla barca e dice al suo amico, oh, vediamo quanto ci mettono ad affondare questi qua. Fanno un po' di strada... arriva un'onda, ti mette un po' di acqua nella barca e tu cominci a vuotare, a fare qualcosa, eccetera, eccetera. Cerchi di liberare la barca. Se non ce la fai, la barca va giù, tutti vanno in acqua e vanno a fondo come delle pericotte. Se non affondi nei primi 200 metri, vai avanti ancora un po'. Se sei fortunato, ti si rompe il motore, vai alla deriva, poi forse ti raccolgono. Se ti raccolgono, sono comunque cazzi perché ti riportano dentro ai centri di identificazione indietro e non è per niente bello, ma questo lo vediamo dopo. Se non ti raccolgono, tu muori di stenti in mezzo al mare. Ma la cosa peggiore, e che è anche paradossalmente la più divertente, è che quando tu arrivi dall'altra parte, di fronte alle coste, per esempio spagnole, in questo caso noi stavamo andando alle isole Canarie, quando tu arrivi di fronte alle coste dall'altra parte, tu vedi la guardia civile. E allora uno fa, oh ciao cazzo siamo qua, frum! Si rovescia la barca, vanno tutti giù e affogano. Nel 2006 sono morte 24 persone sotto gli occhi della guardia civile, che era andata per soccorrere, ma si sono alzate, si è rovesciata la barca e non hanno potuto fare niente, che andavano giù come delle pericotte, proprio andavano a fondo, non hanno potuto fare niente. Fra queste c'erano 3 bambini e uno era un infante. Io adesso ho parlato delle Canarie, ho parlato di un viaggio quindi verso la Spagna, ci sono altri punti nei quali cercano di passare, che sono Ceuta, Melilla, sono le enclavi spagnole che stanno proprio al bordo del Marocco. Molti stanno passando adesso dalla Turchia, stanno cercando di entrare in Grecia, però ci sono ancora, c'è tutta una parte bellissima di area minata nella quale saltare per aria, lì che è un punto perfetto. Poi vedete che molti arrivano a Lampedusa, adesso nelle partenze della Tunisia, questa è una notizia di ieri, è stata speronata una barca, perché è meglio mandarli a fondo comunque, no? Anche perché tanto è un problema, perché poi li devi portare indietro, li devi recuperare. Questo insomma accade in una direzione che è quella dell'Europa, molti stanno cercando di arrivare in Sardegna. E allora cosa succede? Succede che l'Europa diventa come una fortezza. Fortress Europe, che è il nome del blog di Gabriele Del Grande, è un termine che veniva usato durante la Seconda Guerra Mondiale per definire l'Europa, veniva usato dagli inglesi, da Churchill, per definire l'Europa durante il dominio nazista. Noi non li vogliamo, non è che non devono arrivare, è chiaro, cioè stiamo investendo un sacco di soldi perché non arrivino, e stiamo investendo dei soldi anche per delegare a qualcun altro il fatto che controlli le sue coste, che dica sono, cioè, se vengono da te tienili tu. Come funziona? Quando noi deleghiamo per esempio a Tangier, a Rabat, a Tripoli di controllare le proprie frontiere, bellissimo, perché loro se vedono qualcuno che sta partendo lo prendono, lo portano in un centro di identificazione, ad un certo punto ti devono mandare a casa. Allora se per esempio ti hanno preso a Tripoli, quindi siamo in Libia, e ti devono mandare a casa, quindi è il nostro amico Muammar, e ti devono mandare a casa, ti portano al confine con la Libia. Ma dov'è il confine sud della Libia per mandarti, che ne so, in Niger, in Chad o in Burkina Faso? Quindi è a sud, è in mezzo al deserto del Sahara. Allora loro ti portano in mezzo al deserto del Sahara, ti fanno scendere dal camion, ti scaricano e ti dicono, allora guarda, il Niger è di là, il Mali è di là, il Gao è di là, ciao ragazzi, buonanotte, girano in camion e vanno via. È successo che 400-450 persone sono state lasciate in mezzo al deserto nel 2007, proprio in Libia. Quello che è stato fatto è stato spegnere l'unico villaggio lì vicino affinché non potessero arrivare, girare il camion e andare via. Alcuni di loro hanno trovato la luce di un ripetitore telefonico che era rimasta accesa, l'hanno seguita. 120 persone sono arrivate e hanno potuto raccontare la storia. Se voi non l'avete visto, vedetelo, questo documentario è bellissimo, si chiama Wanted but not Welcome, e documenta esattamente quello che accade e quello che io ho appena raccontato. Allora, noi ci siamo permessi di fare un piccolo omaggio, un piccolo tributo alle vittime. Quando io ho messo il titolo allo spettacolo, le vittime erano 15.059 solo all'interno del Mediterraneo, quindi non all'interno, per esempio, dell'Atlantico. Queste sono le vittime censite. Le salme recuperate sono meno della metà. Quindi probabilmente i morti in fondo al mare sono molti, molti, molti di più. Abbiamo fatto un piccolo tributo alle vittime che è fatto così. Rosen Naber, Muhannad Al Rabadi, Tamer Abu Sneine, Kinzu Mezlini, Marwan. Il mio nome è Abdel. Io vengo dal Marocco. Io sono naufragato a bordo di un canotto. No, non è colpa mia. Mi hanno imbarcato a forza, dicendo Pushtunki e spesti fisti. Adesso avrei 20 anni, un diploma di ragioniere. Starei da qualche parte a fare il mio mestiere. Ma qui non è richiesto. In fondo a questo mare ci sono solo morti. Morti da contare. Io ero uno di quelli che non aveva vita, uno con la storia tutta sbagliata. Quando stavo a casa mi sentivo imprigionato. Mai un lavoro, mai un futuro immaginato. Quelli che tornavano mi dicevano: sei un duro, parti adesso che sei giovane, prendi in mano il tuo futuro. Era pericoloso, difficile, costoso. Molti non arrivavano, gli altri non ne parlavano. Incontro questo tizio che mi dice: non temere, devi solo salire a bordo e farti trasportare. Ho raccolto il mio coraggio, ho attraversato il mondo per finire poi davanti ad un canotto sgonfio. Eravamo 23, non sapevamo nuotare, ci doveva essere un cargo. Quella merda da aspettare. Scusate se mi incazzo, che io non lo vorrei fare, ma non ho fatto nulla per meritare di morire. Ruba Bataine Maher Abu Sana Kare Yusei Norma Kata Isham Farur Zayn Al-Haruri, Rosen Naber, Jehad Sarkis, Julian Nursi, Jumana Hur.